English Bit di Giulia Crivelli. To lie. Active measures. What lay behind Russia's interference in the 2016 election? And what lies ahead? Serie misure. Cosa c'è dietro le interferenze della Russia nelle elezioni 2016 e cosa ci aspetta? Questo è il titolo di un interessantissimo articolo pubblicato dal settimanale New Yorker nell'ultimo numero, la cui copertina è dedicata ai rapporti Stati Uniti-Russia e in particolare Trump-Putin. La parola che ci interessa è lei, simple past del verbo to lie, scritto L-I-E, irregolare, to lie, lay, L-A-Y, laid, L-A-I-D, da non confondere con to lie, che è regolare, to lie, lied, lied, che è scritto nello stesso modo e significa però, come sappiamo tutti, mentire. Il to lie che interessa a noi significa invece essere sdraiato in posizione orizzontale o, in senso figurato, stare dietro, come nel titolo del New Yorker. E come se non bastasse l'irregolarità del simple past, lay, e dell'infinito passato, laid, to lie è irregolare anche nel gerundio. The cat was lying fast asleep by the fire. Il gatto era sdraiato vicino al camino, quasi addormentato, ma lying è scritto L-Y-I-N-G. Stessa cosa quindi per clothes were lying all over the room, c'erano vestiti buttati per terra in tutta la stanza. Snow was lying thick on the street, la neve formava un fitto strato sulla strada. Poi ci sono i phrasal verbs. To lie ahead, ad esempio. You're young and your whole life lies ahead of you, sei giovane e hai l'intera vita davanti. To lie in significa invece aspettare qualcuno. He was surrounded by reporters who had been lying in, waiting for him. Era circondato da giornalisti che erano lì ad aspettarlo. Ma anche riposare, non alzarsi dal letto. It's a holiday tomorrow, as you can lie in. Domani è festa, resta a letto, resta in casa. To lie back vuol dire rilassarsi. You don't have to do anything, just lie back and enjoy the show. Non devi fare niente, semplicemente rilassati e goditi lo spettacolo. To lie down vuol dire sdraiarsi. You look very tired, go lie down for a couple of hours. Hai l'aria molto stanca, vai a sdraiarti per un paio d'ore. Per non far torto a to lie mentire, ecco una curiosa espressione. The witness was clearly lying through his teeth. Il testimone stava chiaramente mentendo attraverso i suoi denti. Non possiamo tradurlo perché in italiano non ci suona bene.